Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Oggi parleremo di una storia molto molto particolare, capirete il perché. Parliamo di un commerciante di Reggio Calabria che ha alcune attività nel quartiere di Pellaro del comune di Reggio Calabria, il quale ha una storia che merita di essere messa sotto i riflettori. Questo imprenditore, questo commerciante, Gaetano Caminiti, ha subito un grave attentato alla sua vita il 12 febbraio di quest'anno. Colpi di pistola sparati contro la sua macchina e miracolosamente ne esce illeso. Però c'è un retroscena che adesso racconteremo e scopriremo con lo stesso Caminiti. Buongiorno Caminiti. Buongiorno. Io intanto direi di partire da quella giornata, il 12 febbraio del 2011. Racconti ai nostri radioascoltatori che cosa accadde. Niente, io mentre stavo rientrando da Reggio Calabria, che ero andato a fare un versamento in banca, a metà strada tra Reggio Calabria e Pellaro, c'è stata una moto, mi ha affiancato e hanno sparato dei colpi di pistola all'altezza della testa. E ne è uscito. La mia fortuna è stata che io me ne sono accorto prima. Qualche istante prima e ho cercato di sterzare per investirli con la mia macchina e in quel momento evidentemente la macchina sarà sbandata e sarà stata la fortuna, la bravura mia, non lo so ancora che cosa sia successo in quegli attimi. Fatto sta che per fortuna non è stato colpito. Sono stato colpito di striscio al braccio, però i quattro colpi che erano mirati alla testa sono andati a finire in un montante della macchina che nessuno pensasse che fosse coperto da tre fogli di lamiera. Certo. Allora, questa è la premessa. Ora le faccio questa domanda, Caminiti. Lei ha mai avuto a che fare nella sua vita... Ha mai pagato il pizzo? Ha mai detto di sì alle cosche di Pellaro? Si è mai piegato? Insomma, ha mai avuto a che fare con la criminalità organizzata? Io è dal 1994 che ho a che fare con queste persone. Ecco, ma le ha denunciate? Non ho mai pagato niente. Sì? Non ho intenzione di pagare neanche in futuro. Non pagherò mai. Ecco. Non pagherò. Questo è una cosa forte, sappiate che a Reggio Calabria dire quello che sta dicendo Caminiti non è semplice, non è affatto semplice, tanto che Caminiti appunto ha avuto la spiacevole sorpresa di trovarsi di fronte dei killer che volevano assassinarlo. Ma vi dicevo di un retroscena, Caminiti ha avuto con grandissima difficoltà una tutela, perché? E qui lo sveliamo cosa c'è dietro. Gaetano Caminiti ha avuto la sfortuna, da un certo punto di vista, di imparentarsi con una famiglia di 'ndrangheta. Ha sposato la cognata di un personaggio molto pericoloso. Lui e i suoi familiari hanno una storia di ingresso e uscita dal carcere. Ma non ha mai avuto niente a che vedere con questa famiglia. Dico bene, Caminiti? Sì, giusto, perfetto. E per questo suo distacco, che come abbiamo sentito anche nella voce netta di Caminiti, ha detto non ho pagato e non pagherò mai, ha avuto questa scorta assegnata con grande difficoltà. È vero o non è vero? Sì. E da che cosa nascevano le difficoltà? Cioè le dicevano, io sintetizzo e volgarizzo per i nostri radioascoltatori, caro Caminiti, non ce la conti giusta, lei comunque ha sposato la cognata di un boss, quindi non ci venga a rompere le scatole, evidentemente anche lei ha qualcosa a che fare. Ho sintetizzato troppo volgarmente? Diciamo di sì, se io avessi avuto a che fare anche in parte con queste persone, a me non sarebbe mai successo niente. Giustamente perché avrebbe avuto una copertura. Avrei avuto la copertura, avrei avuto qualche amicizia che mi avrebbero potuto guardare alle spalle. L'avrebbero messa al coperto, insomma. Sì, ma evidentemente io ho aperto un locale nel 1993, dal 1994 hanno incominciato a bruciare la prima macchina, poi la seconda, la terza, hanno bruciato il locale e mi hanno sparato, e cioè, ci sono una miriade di denunce fatte in tutti questi anni. E quindi alla fine, insomma, voglio dire, lei è dalla parte della legalità e l'ha capito anche chi ha dovuto poi alla fine assegnarle una tutela. È logico, perché altrimenti penso che sarebbe una cosa proprio assurda assegnare una tutela ad un parente appartenente alla criminalità organizzata, chiaro. Ma lei, ecco, ma lei vive questo, come dire, in maniera, mi pare di capire, anche abbastanza provata e provante, o sbaglio? Sì. E si capisce molto bene dal modo in cui anche... Perché uno non, cioè, non si è abituati a, certo, a queste cose. Certo. E ci vuole tempo per capire e tempo di imparare anche a sapersi gestire... La propria vita. La propria vita, certo, la famiglia e tutto. Bene, io ringrazio Gaetano Caminiti, imprenditore, commerciante di Reggio Calabria, per la sua toccante testimonianza. Dico grazie in regia a Mauro De Angeli e in studio a Laura Faggin e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.